Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il cartello della discordia è stato rimosso stamattina dalla stessa ragazza che l'aveva messo in vetrina. Una giovane di origine marocchina, Fatima, che vive da 12 anni in Italia e fa la commessa in questo bazar di Vicenza. Anche il suo titolare, dice lei adesso, le aveva consigliato di toglierlo. Fatima non gli ha dato retta, è esasperata dai continui furtarelli che avverrebbero nel negozio, soprattutto ad opera dei bambini. Accusa gli zingari di portarli apposta per rubare le collanine e infilare nelle borse la chincaglieria esposta nel bazar. Non è che è razzismo, oppure ho detto no, i zingari sono animali o questo e quello. Il fatto, io stessa sono straniera, si vede, no, però... Io rispetto le regole. Un cartello che evoca un passato buio di discriminazioni. Era stato affisso qualche giorno fa, il divieto era spiegato con la maleducazione e i continui furti. Non poteva passare inosservato. E così sono arrivate le proteste, le reazioni indignate, le accuse di razzismo, ma anche la solidarietà per Fatima. A Vicenza non si ricordano sindaci impegnati in crociate contro Rom e Sinti, ma l'insofferenza di Fatima non è isolata. Che vadano a casa loro, li pagano un tot per ogni componente. Vabbè, qua rientrano le cose che si dicono sempre. Perché abbiamo resumato questa notizia di un fatto avvenuto a Vicenza nel 2012? Una ragazza marocchina aveva messo un cartello sul negozio, sulla porta del negozio dove lei lavorava, vietato l'ingresso agli zingari. Perché? Perché obiettivamente, oggettivamente, venivano, disturbavano, non venivano certo ad acquistare nulla, ma venivano comunque a compiere attività furtive. Questo ha creato un giusto e anche comprensibile senso di indignazione nell'opinione pubblica. Immediatamente quando si legge un cartello davanti a un negozio che vieta l'ingresso a qualcuno, subito la mente va a una storia recente di cui l'Occidente comunque ancora non si è ben liberato. Non dimentichiamo che nei lager nazisti ne sono stati passati a fil di forno un 220.000 circa di zingari, quindi non si può non dimenticare questo, non si possono dimenticare i cartelli che in molti negozi, anche italiani, anche qui sotto da dove sto trasmettendo io con la radio, probabilmente al tempo delle leggi razziali in Italia proibivano l'ingresso a persone ebree, e non si possono entrare gli ebrei. Quindi questo è una promessa che va fatta, è doveroso, e questo comunque crea disagio e è civile sempre alzarsi e ergersi contro questi manifesti. Ma abbiamo revocato questa notizia perché la stessa cosa è accaduta a Roma, ne danno notizia alcuni siti oggi. Una panetteria nel quartiere Tuscolano di Roma aveva esposto lo stesso cartello e severamente vietato l'ingresso agli zingari anche davanti al negozio. C'è stata una protesta, ha protestato l'associazione 21 luglio, che è una associazione che svolge attività di ricerca sulle condizioni degli insediamenti Rom in Italia, con un'attenzione particolare all'infanzia dei Rom. Si è mossa per sensibilizzare l'opinione pubblica, ha scritto anche al presidente Napolitano, proprio perché siamo in prossimità della giornata che si celebra, no, oggi mi pare che sia, se non mi sbaglio, o domani, che si celebra diciamo l'avversione al razzismo, e proprio in questo momento esce una cosa del genere. Questa è la premessa, però vorrei sapere dalle persone che mi ascoltano, in effetti, non un senso giustificatorio, ma come in realtà ci si possa in qualche maniera, non dico tutelare, ma reagire o dare significata evidenza al fatto che obiettivamente in certe situazioni esiste un profondo disagio. Disagio su cui sicuramente ci saranno degli strumenti più civili e anche più efficaci, piuttosto che mettere un cartello vietato l'ingresso agli zingari. Perché poi se uno vuole comunque entrare lo stesso, cosa succede? Esiste una forma di repressione che consegue quel cartello? Non è come i cartelli che si mettono davanti al passo carrabile, rimozione immediata se metti qui il tuo automezzo perché non posso uscire con la macchina. Tu metti un cartello che in sé non ha nessuna giustificazione legale, giuridica, non stabilisce una norma, non stabilisce una regola. Guarda che la domanda non è poi così facile, perché l'istinto è quello di dire è brutto mettere i cartelli, una cosa schifosa, orribile, non vanno messi. La seconda parte però è dire cosa possiamo fare, qual è una maniera civile civile, comunque per dare testimonianza anche del fatto che probabilmente dei commercianti, dei negozianti devono comunque subire questa sorta di peso sociale, di presenze fastidiose, indesiderate, che non hanno nulla a che fare, diciamo, con la normale attività del negozio. 800240024. Veniamo a sapere che Campo Nome di Casilino sono proprietari di appartamenti e conti in banca, uguale qui vediamo che abbiamo un ufficio postale dove ci sta questi nomadi che arrivano addirittura con i sacchi dell'immondizia per depositare questi soldi. Dice dove li prendono? Vero, li prenderanno dall'elemosina, ma non credo che siano tutto frutto dell'elemosina, perché se devono campare quel poco che prendono penso che lo devono consumare. Ma prima di tutto facendo entrare meno Rom in Italia, e anche a livello... Queste sono alcune voci prese per strada, una vox populi significativa di quello che si raccoglie e si va a fare la domanda per strada. Possiamo articolarla in maniera un po' diversa, in maniera più intelligente, che tenga conto di maggiori fattispecie rispetto a quello che mi scrive il primo ascoltatore che interviene via SMS. Nicoletti: non si è più padroni a casa nostra, dovremmo arrivare come negli Stati Uniti al porto d'armi, e vai, e vorrei vedere poi col porto d'armi cosa si fa, si apre un conflitto a fuoco ogni giorno per strada. Roberto, buongiorno. Nicoletti, come va? Normale. Oggi è primavera e abbiamo un giorno di allegria, sperando che la primavera ci porti giorni lieti, bei sogni e belle cose da sognare. Vedrà che adesso abbiamo cambiato tutto, le cose vanno meglio, anche gli zingari andranno meglio e diventeranno più buoni. Il suo punto di vista, Roberto? Allora, le esperienze sono tante. E il mio punto di vista è che purtroppo, penso che la gente non lo sappia, ma ci deve essere una specie di legge che dalla regina Margherita in poi gli zingari sono un po' protetti. Mi riferisco dei processi di zingari che sono stati colti in flagrante durante il terremoto del Friuli a rubare nelle case. Ho assistito a due processi e non gli hanno fatto niente. E mia figlia, ma lei lavora... posso dire una cosa? Vogliamo parlarci francamente? Lei ha un senso profondo di disagio, di repellenza, non dico repellenza un termine brutto, ma di fastidio tipo fisico quando lo vede per strada, e alla base di tutto c'è questo? Oppure, perché me lo domando anch'io, perché obiettivamente io avessi un esercizio commerciale, a un certo punto comincerei a avere il fastidio di persone che entrano, mettono le mani nelle borse, perché questo accade, questo è indubbio, non si può fare a meno di non dirlo, o ti vengono a chiedere, a infastidire i clienti. La maggior parte sono minorenni, quindi non c'è possibilità di un'azione legale. Esiste una maniera civile che non ci si senta in coscienza di avallare o di ripetere quelle che sono le peggiori aberrazioni della nostra civilizzazione degli ultimi decenni o dell'ultimo secolo, per comunque fare conto di questo problema? Ecco, questa è la domanda che mi faccio io, Roberto. Lei come risponde? Li metterei su un'isola e non gli farei più niente. Vabbè, questa si chiama deportazione, scusi. Guardi che una delle prime soluzioni, prima della soluzione finale, era proprio quello di prendere tutti gli ebrei e metterli su un'isola. È il passo intermedio prima di decidere. Ma è stato in un'isola della Laguna di Venezia. Sì, è bellissimo, Ma sì, l'isola dei morti la chiamano, infatti. Non è che sia proprio. No, qui a disco A se li metterei, non quella dei morti. Cioè, vabbè, che fare lì poi, scusi? Che fanno? Cosa fanno loro? Però vede, c'è un sottostrato di... lei ironizza su questo, ma è per una soluzione semifinale comunque lei rispetto al problema, per come la mette, o sbaglio? Io non sono tenuto a risolvere i problemi. No, l'ho fatto una domanda, dico, io non ho una risposta. Avessi risposte non starei qui a fare la radio, starei d'altra parte. Io penso, a certi problemi non si può trovare una soluzione, non c'è una soluzione razionale. E difatti io quando si dice ma io non sono razzista, non c'è questione di essere razzisti o non essere razzisti, loro si comportano male, punto. Io ho una davanti a me, in questo momento sto guardando la casa, di fronte a casa mia abitano gli zingari, sono stati beccati, hanno fatto un'evasione IVA, hanno tre concessionari auto di 20 milioni di euro, andato su tutti i giornali eccetera, non gli fanno niente, quando entrano in un grande magazzino a Mestre, a Venezia, a Padova, a Treviso e rubano, i direttori dei grandi magazzini, hanno mia figlia dipendente su uno di questi, non gli possono fare niente. Se lei guarda male un vigile la mettono in galera, se questi rubano con le borse piene, li beccano fuori dal negozio, non gli fanno niente. Vedi Roberto, io è molto delicato il ruolo di chi media in queste situazioni. Da una parte non voglio essere colui che soffia sul fuoco della discriminazione, d'altra parte voglio porre un problema alla sua concretezza senza far finta che esista. Carlo Stasolla, buongiorno. Buongiorno a voi. Carlo Stasolla è presidente dell'associazione 21 luglio, che svolge appunto questa attività di ricerca sulle condizioni dei Rom, e è l'associazione che ha fatto la denuncia per il cartello. Io l'ho fatta ascoltare in silenzio per la prima parte della trasmissione perché volevo dare un po' l'idea del senso generale che lei già ben conosce. Lei può aiutarmi a darmi una risposta alla domanda? Mi sono fatto questa mattina insieme a Fabrizio Intonti. Dico, ma di fronte a questa situazione, qual è un atteggiamento che non debba per forza far riecheggiare l'eco più lontana e più terribile di quello che è accaduto nei confronti di una discriminazione portata alle estreme conseguenze? Che ha visto l'ascoltatore dice, ma per adesso mettiamoli su un'isola, ma è il passaggio intermedio rispetto all'accettazione di una soluzione di tipo ancora più drastico? Io la vedo così, sinceramente. Guardi, questo tipo di problema è tipicamente italiano. Ricordiamo che in Spagna, il paese culturalmente molto vicino a noi, ci sono 8 volte il numero di zingari dei Rom è 8 volte maggiore di quello italiano, e i Rom insegnano all'università e siedono nel Parlamento e non esistono campi. Quindi è un problema di facile soluzione. In Italia il numero dei Rom è molto basso. Il problema è che la segregazione e la discriminazione in Italia è stata istituzionalizzata, cioè da 30 anni a questa parte in Italia i Rom si sono voluti chiamare, le istituzioni li hanno chiamati nomadi, e quindi implicitamente capaci inadatti a vivere nelle case. Che è un termine ormai improprio chiamarli nomadi. Assolutamente improprio, è dimostrato, cioè il Ministero del Lavoro attesta che il 3% dei Rom tuttora è del nomadismo. Ecco, i campi nomadi istituzionali, che sono luoghi, solamente in Italia si trovano i campi luoghi, tant'è che l'Italia in Europa è chiamata il paese dei campi, sono luoghi in cui poi si diffonde, in quanto ghetti urbani, la criminalità, proprio perché c'è la segregazione e c'è la discriminazione. Ma voi che avete studiato bene il problema, avete capito qual è la maniera per sradicare alle radici questo tipo di problema? Io sapevo che la risposta sarebbe stata questa, perché la conosco, ci siamo parlati molte volte in trasmissione. È un po' difficile però farlo passare quando ormai l'opinione pubblica coglie l'aspetto terminale di una cattiva gestione del problema che è più che decennale. Bisogna innanzitutto ricordare che in Italia ci sono 180.000 Rom e solo un quinto vive nei campi, 4/5 vivono nelle case e lavorano regolarmente e sono cittadini italiani, quindi ecco, la generalizzazione è sempre sbagliata. Ci sono 35.040 Rom che vivono nei campi, i campi vanno chiusi, i campi vanno superati, il problema è politico, perché non c'è convenienza né economica, attorno c'è tutto un indotto economico. È un grande business gestire un campo nomadi, l'abbiamo già detto questo, infatti, certo. È molto remunerativo. E c'è anche un ritorno di consenso elettorale, perché comunque costruire un campo con le telecamere, con la recinzione, dà una percezione di sicurezza che l'amministrazione dà e può consegnare. Fermiamoci un attimo, Stasolla. Melog, cronache meridiane. Ho affrontato un problema più volte, abbiamo toccato e lambito, perché c'è un episodio di cronaca, che riporta ancora una volta, siccome la nostra coscienza e il nostro dovere professionale è di rifare sempre un punto anche su problemi che sembrano risolti o irrisolvibili, e quindi lo facciamo ancora sui nomadi. Leggo qualche sms, non perché voglio farli indignato, non che io sia meglio degli altri, io probabilmente dentro sono ancora più marcio le persone che scrivono. Gli italiani non sono razzisti, sono stanchi di sopportare ladri impuniti, dei bigotti falsi ben pensanti giustificano. Altra sms: pure le associazioni proteggono i parassiti a società con la cultura del furto, mandate a fare in culo Mirko di Asti, e portano pure sfiga, dice Silvia, oltre a fare razzie. Non farlo parlare, chiedigli di cosa vive questo tizio, chi gli paga lo stipendio, voglio sapere chi lo paga, domandalo. Beh, lo mandiamo subito. Carlo Stasolla, ho letto qualche sms, sì, non so se, non è obbligato a farlo, però se vuole dirlo così almeno togliamo un dubbio. Sgombro il dubbio, cioè la nostra associazione è l'unica in Italia che si occupa di Rom, che per statuto ha deciso di non accedere a finanziamenti pubblici, quindi i nostri sono solamente soldi che vengono da denaro privato di persone che vogliono aiutarci, quindi noi non accediamo a soldi pubblici, quindi non entriamo nel grande business che si muova attorno al mondo dei Rom. E qual è il grande business? Ce lo spiega in maniera sintetica, è quello della gestione, della costruzione, del mantenimento dei campi. Noi abbiamo stimato che per esempio nella città di Roma dal 2005 al 2013 il Comune di Roma su ogni famiglia, una famiglia media di 5 persone, per tenerle in un campo ha speso 245.000 euro. Uno allora si può dire, si fa molto prima andare a una casa, certo si fa molto prima, il problema è che poi questi soldi, di cui nulla è arrivato ai Rom, ma a tutto l'indotto che gravita attorno al campo Rom, vogliono essere mantenuti, da tanto al movimento di associazioni e di cooperative che si muovono attorno a questo mondo. Quindi ecco, ci sono poche le forze che vogliono veramente la chiusura dei campi. Quindi scusi se riassumo per fare una sintesi giornalistica, dietro il cartello di una ragazza o ragazzo o un commerciante esasperato che aveva indubbiamente, oggettivamente un problema, ha fatto un cartello che giustamente ha creato l'attenzione dell'associazione rappresentata qui da Carlo Stasolla, esiste un problema grosso, un problema endemico, un problema anche molto limaccioso nelle responsabilità. Vi ha detto questo signore che in realtà ci sono ragazzini rom sguinzagliati a compiere attività furtive, ne vedo tutti i giorni, prendo la metropolitana 4 volte al giorno, non mi dovete insegnare quanto sia fastidioso doversi tenere le mani nel portafoglio o salvare le borsette alle signore sprovvedute dentro la metropolitana, lo so, ma dietro a questo c'è un problema di criminale gestione dell'aspetto rom, o sbaglio? Assolutamente sì, tant'è che noi comprendiamo benissimo l'esasperazione dell'esercente, tanto che non abbiamo dato a nessuno, malgrado ci fosse stato chiesto, indirizzo, nome e cognome. Però il problema è che chi vive questi problemi non serve a nulla, o serve a poco, o è inutile rivolgersi contro i Rom generalizzando. Bisogna puntare il dito contro le amministrazioni che consentono di avere, per esempio, il campo sotto casa. Il campo è un luogo, un enclave dove i diritti sono sospesi, e quindi è giusto che i cittadini si lamentino, ma non contro i Rom, ma contro chi ha mantenuto e ha creato e ha gestito questo sistema dei campi, che sono le amministrazioni locali o nazionali. Perché diciamo, il momento demagogico è duplice: primo, facciamo un campo Rom e li spostiamo, e quindi sono tutti contenti quelli che li spostano; secondo elemento demagogico è smantelliamo il campo Rom, così vi leviamo il fastidio e li spostiamo da un'altra parte. È una maniera di spostare il problema e acquisirne sempre un vantaggio di tipo elettorale, di consenso politico. Sentiamo Antonella. Buongiorno, sì. Nicoletti. Io volevo dire semplicemente questo. Io vivo a Como e mi ricordo che tanti anni fa c'erano delle piscine che si riempivano troppo di italiani, e fuori dalle piscine c'era scritto vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Non era bello da leggere. A Como? A Chiasso. Ah, Chiasso, è vicino. Ecco. Oppure, non so, in Alto Adige c'erano cartelli con scritto vietato l'ingresso ai cani militari, perché non era gradita la presenza dei militari nei locali. Al tempo delle grandi caserme. Esatto. Ciò premesso, io ritengo che il problema dei Rom vada in un problema molto più grande. Che sì, questo poi non giustifica, diciamo, lei ha citato alcuni esempi di infamità, ma di tale crassa ignoranza che mi fanno anche sorridere, vero? Quindi... Però se lei fosse un genitore svizzero che vuole portare il bambino in piscina... Sì, sì, no, me ne rendo conto. Sì, esaurito, sì. Mette anche quel cartello, è semplicissimo, basta non andare più nelle piscine svizzere, così rimangono vuote e poi si ricredono, adesso non ci sono più questi cartelli. Ma indipendentemente da questo, volevo dire che rientra tutto in un problema molto più grande, che è il problema della certezza del diritto. Se io sapessi che se prendo un ladro posso chiamare i carabinieri, primo, vengono a prenderlo, e questo non è neanche detto. Secondo, posso trattenerlo, e invece no, perché sennò mi denuncia per sequestro di persona. Se rimane infilzato nella sbarra del mio cancello, mi denunciano perché la sicurezza non era eccessiva, per cui il poverino si è fatto male, mentre scappava si è fatto male. Secondo me c'è una legislazione troppo, primo, incerta, e secondo, garantista. Si poi gliel'ha spiegato, adesso lo dirà meglio Carlo Stasolla, che questo esiste in dubbio, che è una cosa orrenda in dubbio, nessuno vuole giustificare questo, ma questo esiste perché il problema è stato gestito in maniera che esistano delle sacche di malavita organizzata, di comportamenti asociali, fatte proprio che le persone, se le margini, se le metti in dei campi, se le tratti come persone che stanno in un campo, come tali si comportano. Lo faremo probabilmente anche lei dopo 20 anni chiusi in un campo alla periferia di una città, andremo in giro magari per negozi o salteremo i cancelli, può essere, non dico che sia così. Emanuele, non lo giustifico, vediamo, allora concludiamo con Carlo Stasolla, perché volevo riuscire a dare un senso a questa trasmissione che non siano le solite battaglie. Mi sembra che nessuno voglia sottostimare il problema, che esiste comunque un problema di malessere sociale dato da queste sacche di irregolarità. Sì, assolutamente esistono e secondo me bisogna lottare insieme, noi che ci battiamo per i diritti umani, i comitati di quartiere, i commercianti, chi vive in disagio della periferia, per fare pressione presso le istituzioni, perché queste sacche di povertà, di marginalità e spesso anche di criminalità vengano chiuse, per cui vengono date opportunità a chi vuole includersi e chi ha diritto e voglia e desiderio di condurre, come tantissimi. Scassola, perché c'è questo senso generalizzato di impunità? Cioè, se io parlo con una guardia della metropolitana di Roma, dice: guarda, io non li posso manco toccare sti ragazzini, perché hanno una fila di avvocati che se non li tocco dobbiamo far chiudere un occhio e lasciar perdere. Qual è il meccanismo per cui ci sia anche in questa fascia, diciamo, criminale, una sorta di senso di intoccabilità, intangibilità? Beh, penso che non è assolutamente vero che esista una sedicente legge della regina Margherita che rende immuni, sì, vabbè, quelli, i rom, chiaramente. Nemmeno l'ho sottolineato. Un po' come anticipava la signora perché mi ha preceduto, cioè poi il sistema giudiziario poi fa falle da tutte le acque, per cui chi ha i soldi, chi ha le possibilità di pagarsi un avvocato, poi la passa liscia. E non nascondiamo che talvolta anche in questi campi ci sono persone che hanno soldi, che commettono reati e che sanno poi che approfittare di questo sistema. C'hanno una buona rete di protezione. Quindi però mi sembra che è stata chiara, siamo partiti da un cartello, abbiamo ribadito un punto che mi sembra fondamentale e importante: nessuno sottostima il danno sociale, ma tutti capiamo che alla radice c'è un comportamento che andrebbe cambiato e istituzionale. A lunedì.